solo emblema per noi, uno soltanto. Antro family, se tanto mi dà tanto. Un solo emblema per noi, uno soltanto. Antro family è la crew per cui canto. Un solo emblema per noi, uno soltanto. Antro family, se tanto mi dà tanto. Un solo emblema per noi, uno soltanto. Antro family è la crew per cui canto. Attrapez le micro, c'est facile. Le problème c'est rapper, c'est-à-dire se défendre avec le micro. Je suis comme un samouraï, je me bats pas pour perdre. Je m'impose dans la cérémonie parce que j'en suis un maître. Si tu vois mon nom parmi les candidats d'une compétition, MC déchire ton invitation. Yo, Vio Beach, Vero Africano, non sono Radio Bacano, yo no suono il tuo brano. Scrivo e pezzi per farti a pezzi, non è scampo. Quando sono in grazia entro in campo, mi diverto a repare il mio gioco e massacrare. Guardati, più mi spiego, più ti piego. Fischi zero e di fioschi neanche l'ombra. Mi sembra che l'azienda ha stile che abbonda. Sulla cresta dell'onda, il mic non è sonda. Che vede di volta in volta una nave che affonda. In mano una bomba da gettare sulla folla. Se con i rap si costruisce qui nessuno lo molla. Il team decolla e vola verso il successo. Ed attraverso il verso influenza il proprio destro. Spesso con modi diversi ma gli stessi obiettivi. Superando crisi con soluzioni che incidi. Vedi, vidi, bici con gli amici lo sai. Antro crew da di più nei live. Un solo emblema per noi, uno soltanto. Antro family se tanto mi dà tanto. Un solo emblema per noi, uno soltanto. Antro family è la crew per cui canto. Un solo emblema per noi, uno soltanto. Antro family se tanto mi dà tanto. Un solo emblema per noi, uno soltanto. Antro family è la crew per cui canto. Che sia per un concerto o ad una cena fuori, di certo quando festeggiamo son dolori. Nei locali avvisano, cazzo arrivano. I fusti di birra finiscono e le sedie volano. Dove li hai mai visti? Artisti, professionisti come questi. Fioi voi come visti, ok? Tassisti testi, tosti. Non dirmi che tostini, rimani fermo, cosa combini? Non hai coglioni, zero problemi, lascia fare sti sei nazareni. Non conosciamo ostacoli, moltiplicazioni di pesci e testicoli. Sono altro miracoli. Il rap prima di tutto, il primo impatto sia il malato acuto. Sfrutto il gioco, ovvio, uso le mie carte in modo astuto. Alla mia gente è noto che in tutto ciò che faccio c'è uno scopo. E non è poco, fuoco. A chi impedisce all'antro anche di puntare in alto. Sto con Cigno, Corte, Garicella, ma so c'è me ne vanto. E intanto punto tutto il mio talento. No, non butto via il mio tempo. Senza non avesse senso, penso non ci sarei dentro. Sento la foto scorrere nel sangue quando canto. La flotta che mi segue quando avanzo. La folla che ci vade quando siamo sopra il palco. E io antro. Un solo emblema per noi, uno soltanto. Antro family se tanto mi dà tanto. Un solo emblema per noi, uno soltanto. Antro family è la crew per cui canto. Un solo emblema per noi, uno soltanto. Antro family se tanto mi dà tanto. Un solo emblema per noi, uno soltanto. Antro family è la crew per cui canto. E io cuto dall'antro family, cerco nuovi stimoli. Gente che ne è capace, legami stabili. So che c'è l'indispensabile per costruire basi solide su cui consolidare la nostra passione. Il nostro principale punto in comune, l'unione, l'hip hop, stare bene assieme. Ogni riunione in crew è una nuova congiunzione. In tema di legame ci diamo da fare, ognuno segue il proprio sogno, non male. Io do quello che sono, mi pare, sfrutto il mio dono cantare. Appoggio ciò che per me è giusto, l'altro anthem, il mio contesto. Rime in giuste dosi, frasi che sposi con basi, con beat spesi, giorni ben spesi assieme a tipi tipicamente cresi, lesi quanto occorre, ma con la fotta di comporre. Scorre il flow ed è uno schianto, se tanto mi dà tanto, per l'altro do tanto. Treviso tiene banco, uomo bianco, siamo i tagliatori di teste. Animiamo le feste, chiedi a Lorenzo Fester. Se solo voi sapeste quante ne ho viste, nei panni di chi insiste, di chi resiste. Io l'antro la sfida, l'emblema sempre al centro, il senso e l'espressione di ciò che ho dentro. Un solo emblema per noi, uno soltanto.